se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Palo, palo, palo. Scusi, chi ha fatto palo? You're frowning, it's like looking down the barrel of a gun and it goes off. And how come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you, a side I much prefer. It's one verse, laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got a face on. Caro Presidente Macron, noi non ci conosciamo, non abbiamo mai avuto l'opportunità di conoscerci, ma voglio approfittare della potenza del web per inviarle questo messaggio. Circa l'80% dei migranti che arriva in Europa passano per l'Italia. Io sono convinto che siamo arrivati ormai a un punto limite oltre il quale non possiamo andare se non al prezzo di tensioni che creiamo nel nostro paese. Ora il problema non è l'accoglienza, il problema sono i fenomeni che si accompagnano all'accoglienza. E da questo punto di vista c'è in Italia un clima di paura. Dopo la sua vittoria in Francia, tutti hanno parlato di vittoria dell'europeismo. Lei è definito un europeista, ma mi permetta di dirle che siamo tutti bravi a fare gli europeisti con le frontiere degli altri. Coinvolgimento pieno, questa è la mia opinione, delle Nazioni Unite e dei paesi dai quali provengono i migranti. La realizzazione di campi di accoglienza nei paesi di provenienza. Presidente Macron, è arrivato il momento del coraggio. È il momento di dimostrare veramente se esiste ancora un'Unione Europea. Li abbiamo messi vicini i due grandi amici, ovviamente scherzo, Di Maio del 5 Stelle e De Luca, del nostro De Luca, che Di Maio ha un grandissimo giudizio, un altissimo giudizio politico, morale, sociale, personale. Cerichetto. No, adesso va bene. Sì, sappiamo De Luca che effettivamente non è tra i più simpatici, non ti è simpaticissimo Di Maio del 5 Stelle, però... Il moscio. No, vabbè, è moscio, non è che è moscio, però spero che questo accostamento non ti abbia offeso, ma no, ma credo di no, ma assolutamente. Gallo cendrone. Calata, va bene. Poi, mo basta, insomma, non è che... È responsabile, vicepresidente della Camera, presidente De Luca. Cerca di andartene. Su questo stiamo lavorando e la conduzione 4.0 sarà tua, caro. Che meraviglia. Oh, stiamo mettendo a punto le ultime cose. Alle 6.34 minuti, questo è 24 mattino, signori, il signor Macron, effettivamente, è Macron, visto così con la sua vive la solidarité dalla Francia, Macron, quello di aiuteremo l'Italia, Macron, tutto impetito, che annuncia una grande riforma in Francia, meno parlamentari, così lavorano meglio, Macron, e soprattutto meno migranti economici, e soprattutto nessun migrante entrerà nei nostri porti francesi, così anche la Spagna. Vive la solidarietà! Che simpatici, eh? Vive la solidarietà! Oggi sul Sole 24 Ore ci sono dei dati. In Italia sono sbarcati nell'ultimo anno. Guardate, vi dico i dati, perché tre numeri che dicono tutto. Ah, 85.183 migranti. 85.000 migranti. Nello stesso periodo, in Spagna, 4.000. In Grecia 9.400, noi 85.000. Vive la solidarietà di Macron! Ah, signore. Allora, c'è il sole sul mare del nord, 13 gradi a Schiffdorf. Ci scrivo da... Lorenzo, ti aiuto ad essere in Germania. Schiffdorf. Nelle fabbriche di Casa Basciana Lucca 13 gradi e zero migranti. In Bassa Sassonia, capisci? A Tremalzo 10 gradi. Tremalzo, forse l'abbiamo già cercato in passato. Tremalzo 10 gradi. A Budapest, signori, 16 gradi e cielo terso, ci ascolta Federico da Budapest. Lago di Garda. Pellaloco, per favore, Pellaloco, 19 gradi. Un saluto anche ad Aldo. Pellaloco, Mantova. Guarda già che ci sei, Ponte Lago Scuro, 20 gradi. Mauro, ti faccio impazzire stamattina. Ponte Lago Scuro. Ferrara. Guarda anche l'Ariano, cioè l'Ariano sarà su Como, no? Da quelle parti, no? Vabbè, ci sono comunque all'Ariano, sereno, 20 gradi. Com'è Roma Capitale? Vabbè. Signori, in geografia siamo strabocciati. Io pensavo è l'Ariano, quindi è del lago di Como. Niente, invece no, ci sarebbe arrivata forse anche Aurora Lussana. Buongiorno Aurorina. Io avrei detto l'Ariano, l'Ariano. E invece è Roma, capisci? Roma, città metropolitana, l'Ariano. Sì, notizie dall'estero. Roma vicino Albano Laziale, ma la storia, la geografia. Notizie dall'estero, ricordate sempre Aurora Lussana. Notizie dall'estero, Roma, tre righe sul suo giornale ideale. Questo. Allora, sì. Signori, c'è Aurora Lussana dopo aver conquistato Cantù col marito, che è uno di quelli che ha preso più preferenze, mi risulta il Molteni. Mister preferenze. Chiuso il voto femminile, sai. Bel pezzo di madre, ragazzo, sai com'è. Sta parlando di suo marito, per chi non lo sapesse. Beh, ragazzi, sono venuta fino a Cantù per sposarmi, ci sarà un motivo. Non rimanevo su nelle mie prealpi orobiche. Tutte le donne hanno votato a Cantù il Molteni. Tu lo sapevi, caro Massimo De Manzoni, condirettore della Verità, buongiorno. Buongiorno, lo sapevo, sì. La nostra Aurora ha sposato un bel manzo e tutte le donne di Cantù, appena lo vedono per Cantù, lo votano. Questo succede. Tra l'altro, ricordiamo sempre, parlamentare e ora consigliere comunale, insomma, per avere due cadreghe, due poltrone, due stipendi, due prebende, ma si fa gratis, due vitalizi. Il consigliere per il prossimo, il nostro sindaco, sì, Edgardo Arosio. Cantù 18 gradi, devo dire, sì, che da quando, sì, c'è sulla Lega anche il clima, c'era quel caldo africano. Prima che arrivasse la Lega, adesso c'è un clima proprio mitteleuropeo, una meraviglia. Io le do anche la parola, guardate. Ecco, è il nostro caldo africano che quando arriva mi viene l'ansia. Sì. Adesso è tutto a posto. No, Edgardo Arosio adesso farà la giunta e ovviamente no, lui come consigliere, ma figurati, mica prendi il gettone di presmarchia. No, figurati. No. Dai, apriamo il Parlamento, che voglio subito. Allora, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè. Vedo anche qui a pagina 4 della Verità, la solidarietà di Macron. Che dire, Massimo, l'avevamo salutato come sembrava una ventata di nuovo di no? Capito come ha messo subito in chiaro alcune cose. L'avevate salutato. No, sembrava sembrava così. Vabbè, sembrava, dai, un giovane, uno un po' delle nuove generazioni. Un sì, po' ma guarda che lui non è che sbagli, stiamo sbagliando. E noi sbagliamo. No, sì, a me certo. Non mi piacerebbe avere un Macron che dice niente sbarchi nei miei porti. E no, i migranti economici. Ma noi abbiamo già Salvini, cosa ce ne frega del Macron? Diciamo che Salvini ha un po' meno potere in Italia di Macron. Però insomma, ti piace? No, beh, interessante. Ma ti piacerebbe un Macron? Cioè, Minniti? A me Macron in assoluto non piace. Sì, ma no. nello specifico, mettersi a dire ma doveva aiutarci. Sì, ma sono 10 anni che continuiamo a dire che l'Europa ha anche di più, forse, ma sì, in altri campi. Ma in questo campo qui sono svariati anni che continuiamo a bussare alle porte dell'Europa e troviamo sempre le stesse sì, risposte. Pacche sulle spalle, grandi parole, e poi non si fa niente. Perché poi alla fine questo è l'Unione Europea. È un campo di battaglia, nel quale ognuno con grandi sorrisi fa gli interessi della propria nazione. E in questa chiave Macron sta facendo benissimo. Sta facendo benissimo. Cioè, ma chiaro, per i francesi, no, ma infatti, voglio dire, però abbiamo fatto l'Europa per arrivare a dire su alcune cose non dovrebbe essere la Francia, la Spagna, se no torniamo, la ragione era lussana, torniamo ognuno al proprio Stato, alle proprie frontiere. Sì, ma siccome io sono convinto che questo tipo di Europa non esiste, non l'abbiamo visto su tanti aspetti economici, prima ancora che... Basta pensare alla guerra che ci ha fatto la Germania nel 2011, perché quello fu un atto di guerra quando la Bundesbank cominciò a vendere i titoli italiani in modo da far spezzare lo spread. Quello fu un vero e proprio atto di guerra, altro che solidarietà europea. E ci ha condizionato pesantemente, ha provocato l'arrivo di Monti, cioè del peggior presidente del Consiglio d'Affari di questo paese, che ha rovinato l'economia di questo paese in modo forse irrimediabile. Ma di cosa stiamo parlando? Di Europa? Di Europa. Questa è musica, mettete sull'inno l'inno alla gioia per Aurora Lussana, dai. L'inno alla gioia è l'inno dell'Unione Europea, te lo chiedo. Insomma, appunto per quello ti volevo mettere l'inno alla gioia. No, ha ragione. Diventeremo tutti salviniani per rabbia. Ma questa no, è la verità. Per rabbia. Ognuno per sé, io per tutti in Europa. È così, poi il Macron a Versailles. No, dai, non ce la faccio. Clodoveo da vedere Macron a Versailles non ce la faccio. Però ti dovrebbe piacere anche a te adesso questo Macron. Senti che belle note. Senti, canta. No, non è cantata, però lascia. No, è cantata. Dai, su, Aurora. No, non è proprio il mio ideale. Cosa di Macchio, ti suscita? Cosa ti suscita questa canzone? Queste note? Macron o Beethoven? No, Beethoven mi piace. E Macron? Un altro ideale di maschio. Un altro ideale. Milan, dai. Più manzo. Ha ragione. Perché? Sai perché? Perché adesso la cosa penosa è che l'Italia spera che anche gli altri aprano come noi i porti, no? Ma ormai ha fatto diventare i porti dell'Italia un bordello, no? Poi tu non è che puoi pretendere che anche gli altri aprono i porti al mondo, facciano diventare anche i loro porti un bordello. Ma sono colpe che vengono dal passato, da Mare Nostrum e Now for Med, ancora ai tempi del povero Letta con il Dublino 3. La domanda però alla quale nessuno riesce a dare una risposta, ma proprio è perché non vanno a Malta, non vanno in Spagna, non vanno in Francia. Pigliano. Ho capito, ma non li pigliano, ma non è che allora non è. Ma è un sistema dalle ONG in giù, no? Hai visto adesso andremo su a Tallinn, sempre penosi come sempre, a chiedere che l'ONG collabora, ma siamo qui che ci sono le ONG. Non lo so, ma ci sarà una risposta. Non so, Massimo tu l'hai capito, al di là di tutto, al di là di non li voglio, cioè perché non è facile. Facile dire non li vogliono, non li prendono. Allora uno dice, se domani lo dice anche l'Italia, cosa fanno queste navi? Vagano per il Mediterraneo in attesa di qualcuno? Intanto sì, cioè, nel senso che cioè, tutto questo ruolo delle ONG che noi abbiamo denunciato per tempo, noi intendo come la verità, e che adesso improvvisamente, visto che fanno un regolamento a livello europeo, anche chi aveva detto non c'è nessun problema, ammette che il problema c'era. Allora, il ruolo delle ONG è finito in questi termini quando sostituimmo Mare Nostrum con Triton, con la missione Triton. Sì, sì. Era il 2014, regnava l'ineffabile Renzi, e noi riconoscemmo come legittima la violazione del regolamento di Dublino, accettando il principio per cui tutti i salvati potevano essere portati in altre poste. L'abbiamo accettato in cambio di il denaro, poi, fondamentalmente, perché Mare Nostrum era tutto a nostro carico, ed era anche quella un'iniziativa partita in modo, in modo discutibile, sì, eccetera, eccetera. Triton era a carico di tutta la comunità dell'Europa. Europea, e quindi ci venivamo alleggeriti di questo peso economico. E poi invece è diventato un peso, come dire, sociale. Ma lungimiranza, abbiamo accettato la deroga al Trattato di Dublino. Che cosa prevede il Trattato di Dublino? Quello che continuiamo a invocare, che poi venga scardinato, perché se li tiene chi il paese dove arriva. Le navi battenti bandiera straniera sono già suolo straniero, per cui teoricamente chiaro. Invece non lo fanno. Siamo stati noi gli artisti, come sempre, del nostro nel destino. Va bene. Cara Aurora, che dobbiamo fare? Così, sì. Basta, Milan, su, dovevano ascoltare Salvini. Eccoli. Però oggi, no, visto che c'è il vice direttore della Verità, ho visto che bella roba la Verità che ha fatto questa santa alleanza tra il Bergoglio e il Trump. Il Bergoglio e il Trump. Aspetta, diamo al traffico, sì, che poi ne parliamo tra poco. Ciao Milan, fammi sentire il traffico. La Ital Petrol Ceme Termo Tessil Pharma Metalchimica si fermerà un minuto per ricordare un suo storico ex dipendente, ragionier Ugo Fantocci, ufficio sinistri. E come si fa a dire che il Portogallo è allineato all'Italia come prezzo? Una birra media a Lisbona al Barrio Alto costa un euro una birra media, ragazzi, è allineato all'Italia. Oh Maria, sono Anacleto, lo sai che ora ultimamente si sente dalle 8 dopo la lettura dei giornali, tanti argomenti interessanti, per l'amor di Dio, di attualità. Ma scusa, ma delle case chiuse non parli mai, ma è una bella trasmissione che intervengo io. Long she sees apart from me, possessed behind the eyes. And apart from the frightening, the moaning, the biting, you seem to be the nice guy. And I know what she thinks when she looks at me, when she looks with such despair. Lui aveva il diabete, aveva un diabete che si è curato poco perché male. Come era il suo carattere. Quindi attenzione a mangiare tutti. Quindi delle patologie del diabete che si sono aggravate e purtroppo lo sapeva, non ha fatto niente per impedirlo. Il figlio di Paolo Villaggio, ragazzi, Paolo Villaggio, vabbè, ma ieri ancora vedevo su Rai 1 uno dei film con la Coppa Cobram e ridevo come, non lo so, perché poi l'Italia si divide in due, c'è chi Paolo Villaggio non l'ha mai, proprio lo guardava e diceva io non capisco come tu possa ridere per questo, per me, non so, tu Massimo, io ho visto Rai 1 anch'io la coppa, la punzolatura, dice sì, punzolatura, sì, sì. Dai ragazzi, ma... no, io ridevo, di amaro con il villaggio, perché poi era l'esaltazione dei nostri difetti, poi alla fine, sì. No? però il dito nella piaga era capace di metterlo come... Ma come sì, nessuno, ma sì, ma sì, dai. Tu Aurora che fai? No, tu sei un po' l'adoro, no, l'adoro, adorato, sì, sì, grande, sì, villaggio, grande. Chi ha sì. fatto Paolo? Vabbè, sì. Insomma, allora l'elogio, oggi il titolo di apertura della Verità è di questa vicenda, che è una vicenda tristissima ovviamente di base, noi ne abbiamo parlato anche due giorni fa dal punto di vista etico di questo bambino Charlie Gard, che in Inghilterra è affetto da una patologia gravissima, pare secondo i medici britannici assolutamente senza speranza, 16 casi al mondo. Voi della Verità avevate fatto un appello all'ospedale del Papa, chiamiamolo così, dai, bambino Gesù, perché l'ospedale Vaticano, cioè. a dire accoglietelo. Voi ieri è arrivata la richiesta a dire noi siamo disposti, però Massimo, qui c'è, cioè, si tratta di un bambino, a me, io ho letto tutta la sentenza britannica, proprio senza speranza, qualcuno dal punto di vista medico dico non sente, non ha proprio, non ha sentore, ogni giorno rischia di aggravarsi dal punto di vista della sofferenza. Allora ci si chiede dov'è il limite, no? Cioè, se i medici intervengono così dicendo bisogna porre fine alla sua vita, che comunque finirà presto. Ecco, il problema è i medici e soprattutto i tribunali che dicono bisogna porre fine alla sua vita. Questo è il vero problema. Queste cose qui non devono arrivare nelle aule di giustizia, a mio modo di vedere. Devono essere risolte tra i medici e la famiglia. Se non c'era speranza, probabilmente è anche vero. Deve essere un caso umano trattato tra... Perché i medici dicono ogni giorno diventa un accanimento la sua ma vita. Se diventa, perdonami Alessandro, ma se diventa un caso emblematico, diventa un caso giudiziario e su una sentenza c'è scritto che il miglior la miglior cosa per il bambino è essere ucciso, non ci siamo più. Se diventa una sentenza addirittura a livello europeo, vuol dire che di questo si può dire di chiunque. Cioè, chi è poi che decide se la mia vita vale la pena di essere decisa? Avete paura che hai paura che diventi un crinale sempre più da spostare in avanti. Certo, certo. Io non avrei avuto, ma ne succederanno migliaia ogni giorno di casi come questo, in cui nel chiuso di una stanza d'ospedale un medico spiega per bene che cosa sta succedendo a una famiglia e piano piano li convince. Qui il problema è quando è nata questa discussione, cioè questa diatriba, i genitori che dicono noi non siamo d'accordo, noi lo vorremmo portare in America, noi vorremmo tentare altre vie, e certo, da qui che è nato, diciamo, tutto il contenzioso. Certo, però è pericolosissimo quello che sta succedendo, cioè se espropriare un genitore della patria potestà nel nome del bene supremo del bambino, e questo bene supremo è ucciderlo. Insomma, sta succedendo qualcosa. È chiaro che va messo un freno, perché altrimenti veramente il rischio è che la prossima volta tocchi a tuo nonno, allo zio, a noi, al genitore che è una vabbè, Aurora saluta questa postumanesimo, si chiama postumanesimo, finita. È il diritto nichilista, è così, no, povera creatura, ma che lo portino al bambino Gesù in America, che lo portino via da quello no, è che poi crea un precedente gravissimo, perché uno dice, visto quel bambino là non c'era speranza, guardi il signore, anche il suo figlio, e basta, si crea questo precedente, è finita, no. Non ti piace, basta, è Erode, cioè l'Europa che diventa Erode, eccola. Vedi, parlavamo di Europa prima con la sua sentenza, mi ricorda, siamo a Erode. Vabbè, io solo una cosa dico, mi chiedo anche tutte queste istituzioni che fino a questo momento, visto che il caso era da 10 mesi, e questo bambino a 10 mesi se ne sapeva già molto, e che forse negli ultimi giorni, forse dopo che c'è una sentenza, forse proprio il giorno prima in cui i medici applicheranno quello che dice una sentenza, adesso si muovono, per cui Trump dice eccomi, sono qui, e tutti dicono siamo pronti a salvare una vita che probabilmente non è salvabile. Forse Massimo, sono arrivati un po' tardi. Ecco. Un po' tardi, sì. Ecco. Un po' è colpa anche media, perché a questa storia non è stato dato il peso, tranne appunto qualche piccolo giornale in Gran Bretagna, e poi anche tranne in Gran Bretagna, forse sì. In Gran Bretagna sì, però anche lì non lo so, non c'è stata una campagna giornalistica. Noi abbiamo fatto una piccola campagna e qualcosa forse siamo riusciti a muovere. L'appello diretto al Papa ha sortito un effetto, non per tirarcela troppo, ma insomma fino adesso Papa aveva fatto un tweet in cui non manco lo nominava, è chiaro. E quindi adesso qualcosa è chiaro che è troppo tardi, ripeto, non si sta parlando più della vita di questo bambino, ma della nostra vita, sì, esatto, è a volte alcune battaglie vengono fatte anche perché sono un simbolo di una di cause più importanti. Vi devo salutare, vi ringrazio, Massimo De Manzoni, condirettore della Verità, e Aurorina Lussana, la regina di Cantù. Anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milano, anche quelli di Roma, di Napoli. E me ci mettiamo pure quello della Sicilia, perché queste cose fanno schifo quello della Sicilia. 24 mattino. Alle 7:20 minuti siamo qui, non ci fanno schifo i giornali di nessuna regione italiana, anzi ci piacciono le vostre sigle, mandate al numero 349-238-6666. Se le mandate via WhatsApp, magari si sentono bene come questo ascoltatore. Noi le mandiamo in onda. Siamo pronti, è la rassegna stampa di 24 Mattino. Siamo lì con Peter Bescapè, regia, al nostro Lorenzo Nespoli. Andiamo! Il vostro nuovo direttore totale sarà il dottor Inge, gran mascalzon di Gran Croce, Visconte Cobram! No! Signori, ieri riproposto da Rai 1 e ridevo come la prima volta. No, non proprio non come la prima volta, forse. Anche un po' con quella risata amara pensando a Paolo Villaggio, a tutto quanto ci ha lasciato. In ogni caso, martedì 4 luglio. Siamo qui con i titoli, le aperture dei quotidiani. Piazza Affari corre più 2% in attesa del via dell'Unione Europea a Montepaschi. Questa è l'apertura, come potete immaginare, del Sole 24 Ore, la giornata finanziaria in prima pagina. Poi la questione migranti tiene ancora banco. Per il Corriere della Sera, soccorsi più a largo e solo autorizzati il codice per le ONG. Questo è il Corriere della Sera. Per Repubblica, migranti, un accordo a metà, Francia e Spagna, porti chiusi. Così la stampa, migranti, Macron delude l'Italia. Per il giornale, Macron fa il furbo e ci molla gli immigrati. Il Messaggero, agenti italiani sulle navi ONG. Anche il Manifesto mette in prima pagina il presidente francese, il titolo è Il Francoforte ed è Macron. Per Libero, soldi alla Libia, i neri a noi. La Verità invece, come Avvenire, ha in prima pagina la vicenda ancora di Charlie Gard, questo bambino inglese. Il Papa e Trump in soccorso di Charlie è il titolo della Verità, che aveva fatto appello proprio all'ospedale Vaticano Bambin Gesù di accogliere il piccolo gravemente malato, e l'ospedale Bambin Gesù si è detto disposto a farlo. Cure fino alla fine è il titolo anche di Avvenire. Sale la mobilitazione a fianco di Connie e Chris Gard, madre e padre del bimbo malato a cui i medici londinesi vogliono staccare la spina. Allora, signori, da cosa cominciamo nella lettura? Siamo il paese dei concorsi infiniti. L'ultimo è quello di Banca Italia, 85.000 persone alla ricerca di 30 posti da viceassistente. Avete capito bene le proporzioni? 30 posti assegnati per concorso si presentano o fanno domanda in 85.000 italiani. Allora, oggi Sergio Rizzo sul quotidiano Repubblica, sapete che da un mesetto circa Rizzo, dopo una lunga carriera al Corriere, ora scrive su Repubblica, racconta in un'inchiesta proprio la corsa al posto fisso. Pagina 1, quei 400.000 in mano al TAR. Quanto grande sia la fame del posto fisso in Italia, dove la disoccupazione giovanile non si schioda dal 40% giù di lì, lo dice un numero. Ed è questo, 393.413, come se l'intera città di Bologna si fosse presentata in blocco per partecipare a due soli concorsi pubblici. Per cercare la miseria di appena 830 stipendi, 800 da cancellieri, tanto da scatenare 308.468 persone e 30 viceassistenti di Banca Italia con 84.745 concorrenti. Ma la cifra sarebbe stata ancora più sorprendente se al concorso per quei posticini di Banca Italia non fossero stati esclusi 76.000 diplomati, ragion per cui sono già pronti i ricorsi per bloccare tutto. I sindacati sono sul piede di guerra perché sostengono che tagliar fuori chi non è laureato sarebbe discriminatorio, e su come potrebbe andare a finire non si possono nutrire particolari dubbi, se è vero che il TAR aveva già bocciato la regola del bando che poneva come limite minimo per l'ammissione un voto di laurea non inferiore a 105. Se c'è una regola in questo paese nel quale un articolo della Costituzione prescrive che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede tramite concorso, è che non ce n'è uno nel quale fili tutto liscio. Prendete quello per i cancellieri. Per un mese la Fiera di Roma si è trasformata in un girone dantesco, finché il giudice del lavoro di Firenze, Stefania Carlucci, ha intimato al Ministero di riammettere la signora Mehilla Orchida, albanese, esclusa perché non in possesso della cittadinanza italiana. Ha fatto ricorso e il Tribunale le ha dato ragione. A luglio dello scorso anno era toccato al TAR del Lazio, come ha raccontato Marco Ruffolo su Affari Finanze, annullare il primo concorso regionale per 40 infermieri, perché sei mesi dopo gli esami per l'assunzione di 34 impiegati sono finiti sotto la mannaia del TAR dell'Umbria. Il TAR del Piemonte ha bloccato il concorso per 150 infermieri a Torino, dopo che in 2005 avevano già superato le selezioni. Ma questo è niente rispetto al concorsone del Comune di Roma, col quale si sarebbe dovuto fra l'altro rimpinguare di 300 unità al Corpo dei Vigili Urbani. Bandito nel 2010, sospeso per 7 anni. E qui, per una volta tanto, quella magistratura amministrativa che spesso e volentieri imprigiona il paese con le sue decisioni non c'entra nulla. Ma poi ci sono anche i concorsi come quello per i laureati in beni culturali, con questa domanda: di che cosa sono fatti i bronzi di Riace? Attenzione, la domanda è complicata. I bronzi di Riace di cosa sono fatti? A. Legno. B. Marmo. C. Bronzo. Domanda per i laureati in beni culturali. I bronzi di Riace. In marmo, in legno o in bronzo? Va bene, dai. Il paese dei concorsi infiniti. Tanto ce ne occuperemo anche più avanti dalle 8. Il timore che finisca tutto in ricorsi anche qui e accolti. Però se allarghiamo l'orizzonte al mondo universitario italiano, c'è una bella ricerca di una rivista dell'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti che ha pubblicato uno studio sul nepotismo nelle università mondiali. In Italia è maggiore che in Francia e negli Stati Uniti. La rivista si è appoggiata a due autori, tra l'altro italiani, Stefano Allesina e Jacopo Grilli, che lavorano a Chicago e che hanno analizzato i cognomi di 133.000 ricercatori italiani, francesi e delle migliori università pubbliche americane. Poi, con metodi statistici elementari, hanno dimostrato similarità e differenze tra i vari sistemi. Per esempio, gli accademici italiani, specialmente al sud, tendono a lavorare dove sono nati e cresciuti, mentre gli americani si spostano molto di più. Cosa hanno fatto questi due ricercatori? Hanno contato il numero di ricercatori con lo stesso cognome in ogni dipartimento. L'abbondanza di ricercatori con lo stesso cognome potrebbe essere dovuta sia a effetti geografici, perché alcuni cognomi sono tipici di una zona, o anche da una immigrazione specifica. Ma se la ridondanza non si spiega così, allora potrebbe essere dovuta a professori che fanno assumere parenti stretti. Secondo questo sistema, come racconta Alessio Ribaudo a pagina 22 del Corriere della Sera, siamo primi per nepotismo, il triste record degli atenei italiani. E questa ricerca la potete trovare spiegata a pagina 22 del Corriere della Sera. Invece c'è qualcuno che gongola in TV, lo abbiamo detto varie volte, è Fabio Fazio, che sicuramente ha strappato un cachet da 2 milioni e 200 mila euro per condurre, più bonus per produzione e format. Ed è proprio su questo, i bonus per produzione e format, su cui si concentra oggi il giornale. Tornando su questa vicenda, Paolo Bracalini racconta a pagina 12 di tre clausole segrete che coprono d'oro Fazio, perché non c'è solo lo stipendio, 2 milioni e 2 l'anno. Ma in soldoni cosa significa? Significa che la nuova trasmissione di Fabio Fazio sarà anche prodotta non più dalla Endemol, la società di prima, ma una società nuova di cui sarà socio proprio Fabio Fazio, come peraltro lui aveva già annunciato di voler fare in un tweet su Twitter. In soldoni, scrive il giornale, significa che a Fazio arriverà l'appalto della RAI e quindi, oltre allo stipendio, un compenso come produttore del programma, oltre che come conduttore. La Corte dei Conti ha ricevuto un esposto di Michele Anzaldi, segretario della Commissione Vigilanza RAI del PD, che vuole vedere chiaro su questo, chiedendo soprattutto: può un'azienda pubblica, la RAI, deliberare di stipulare un contratto di appalto con una società che ancora, a quanto risulta, non esiste? Società di cui peraltro sarà socio lo stesso soggetto già beneficiario del contratto principale? Infatti questo pacchetto Fazio prevederebbe non solo il compenso, 11,7 milioni in 4 anni, ma anche un esborso di altri 10,8 milioni euro per la produzione di puntate, cachet degli ospiti e organizzazione, un costo totale circa di 20 milioni di euro. Il giornale dunque non recede di un passo su questa vicenda e insiste sul cachet di Fabio Fazio. Oh, invece conoscete per caso i tre di denari? Voi dite, ma che cavolo è i tre di denari? Vedete il programma di Amadeus, quello Reazione a Catena? I tre di denari sono una delle squadre che, insomma, sono tre ragazzi che hanno vinto Brianzoli, si chiamano Marco Burato, Francesco Nonnis, Michael Di Liberto, hanno tra i 27 e i 29 anni, hanno vinto molto, pare 400.000 euro, ma hanno perso il posto di lavoro. Questa storia viene raccontata oggi dal Giorno. I tre campioni del quiz di Amadeus licenziati per le assenze ingiustificate, ma dopo la super vincita sono diventati star del web. E infatti dicono: ci prepariamo ora alle finali di agosto, poi penseremo al da farsi. In questo caso, da questo momento, tutte le proposte di lavoro sono ben accette. Quindi hanno vinto 400.000 euro in gettoni d'oro, che poi sono un po' meno, poi se li devono dividere, ma hanno perso il posto di lavoro. Però dicono: non ci siamo lasciati male, l'azienda ha esercitato un suo diritto, visto che siamo stati assenti, ingiustificati per un po' di tempo per andare in TV. E raccontano al Giorno con Veronica Todaro questa storia, ma non sembrano neanche tanto infelici. Dicono: vabbè, sono giovani, magari nuove prospettive, certo si godono un po' di notorietà oltre che di un po' di denaro messo da parte. Vabbè, dai, siamo all'articolo che mi fa pinzore della giornata. Oh, non è accanimento, ma insomma, per il secondo giorno consecutivo si parla di pedofilia e chiesa. Questa volta è La Stampa che racconta in un trafiletto a pagina 18 questa storia. Condannato per pedofilia, ritorna a dire messa dopo 3 anni di carcere. È tornato a dire messa, racconta Riccardo Arena, tra i fedeli di una parrocchia di una zona a rischio criminalità a Palermo. Chiesa Maria Santissima del Carmelo ai Decollati, tra lo stupore e l'imbarazzo dei fedeli, perché ha finito da qualche mese di scontare una condanna per pedofilia. Mai sospeso, mai cacciato, mai ridotto allo stato laicale, 3 anni inflitti a Don Paolo Turturro, che ora è tornato al suo posto sull'altare. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Alessandro Milan è un po' il Macron dell'informazione. Voilà, adesso di Macron parliamo. Prima vorrei dire a 2 ascoltatori, il primo che dice: ma effettivamente la domanda è stupida, come si fa a non sapere che i bronzi di Riace siano fatti di Riace? Ride anche Peter Pescatè, è incredibile. Grazie ascoltatore per questa battuta, ce la rivendiamo oggi al bar con almeno 300-400 persone. Damiano invece da Roma mi dice: ma come mai l'articolo non ti fa più incazzare? Non è quello di Donnarumma, i 6 milioni che forse oggi firmerà, rimarrà al Milan? Ma non è questione di tifo eccetera, perché semplicemente non provo invidia sociale. Capisco che per voi italiani, questa che vivete di invidia sociale, a guardare se il vicino ha comprato la macchina nuova, a vedere se quello guadagna 2.000 euro più di voi o 2 milioni prima di, più di voi. Voi che vivete di questo, vedete un 18enne che guadagnerà quanti? 5, 6 milioni, non lo so neanche, spero 6 e non 5 per lui. Non provo invidia sociale. Guadagna 6 milioni? Ha un agente che è riuscito a strappare un contratto da 6 milioni? Buon per lui. Buon per lui. Punto. Allora, signori, Macron, appunto. Oh, la solidarité française oppure la solidarietà spagnola. No di Francia e Spagna sui porti. Roma accelera i rimpatri 11.000. Questo è il titolo di pagina 5 del Sole 24 Ore. Anche se il migliore titolo è quello che dico io da giorni, cioè il teatrino solito, e infatti il Giorno titola così: tante parole, zero aiuti, il solito teatrino dell'Unione Europea. La verità è che l'Unione Europea su questo non esiste, non esiste, e ognuno fa per sé. E Macron l'ha detto chiaramente e lo fa capire chiaramente: i migranti economici non li vogliamo. E non pensiate, questo verrà messo nero su bianco, che i migranti salvati vengano portati nei porti francesi e così dalla Spagna nei porti spagnoli. Un dato che Marco Ludovico mette puntualmente a pagina 5 del Sole 24 Ore fa capire tutto. Dall'inizio dell'anno scorso, dell'anno in questione, del 2017, sono sbarcati in Italia 85.183 migranti. 85.000. In Grecia 9.461, in Spagna 4.029. Abbiamo parlato tante volte di Malta, zero, ancora insistono le persone. Ma Malta è piccola, ho capito. Ne vorrà accogliere 3? Ne vorrà accogliere 5? Ne vorrà accogliere proporzionalmente 100? Ma zero significa che c'è qualcosa sotto di poco chiaro. Francia e Spagna, nessun migrante nei nostri porti. Titolo anche del Corriere della Sera. Oggi il piano dell'Unione Europea. Ovviamente i responsabili delle ONG si sono scatenati, nel senso che non ci stanno a passare per i capri espiatori, perché c'è questo nuovo piano proprio per le ONG, come racconta Fiorenza Sarzanini, e cioè no a trasbordi e luci, proibito spegnere i transponder e segnalare la presenza in mare anche alle barche che salpano dalla Libia, indispensabile fornire elenco di equipaggi e liste dei finanziamenti ottenuti. Beh, questo mi sembrano tutte cose sensate se vengono messe a punto, perché le regole vanno rispettate. Ma appunto i responsabili delle ONG non ci stanno a passare per i colpevoli di questa situazione. Viene intervistato, per esempio, su Repubblica, pagina 3, Marco Bertotto di Medici Senza Frontiere. Se non ci vogliono in quelle acque, ce lo dicano chiaramente. Poi noi valuteremo se le conseguenze dell'abbandono del campo da parte nostra sono sostenibili rispetto allo spirito della missione. Ma mi chiedo, se vanno via le ONG, chi salverà queste migliaia di persone? Questa è la domanda che si fa Bertotto, che poi insiste che 3 ministri europei si riuniscano e partoriscano l'accordo, come se il problema fosse la mancanza di regole per le ONG e non la mancanza di una politica europea sui flussi migratori, è un'ipocrisia, una trovata da sepolcri imbiancati, un'offesa all'intelligenza delle persone. Sarà che le ONG sono il vaso di coccio in questa partita. Anche Regina Catrambone, intervistata anche da noi, responsabile di questa ONG MOAS, con base a Malta, risponde dalla nave Phoenix e dice: ben venga tutto, anche i regolamenti. Ma perché, per esempio, non li cominciate a portare a Malta? La domanda di Fabrizio Caccia. Io li porterei a Malta, li porterei in Francia, in Spagna, in Tunisia, ovunque se potessi, soprattutto se me lo consentissero gli accordi internazionali negoziati tra stati. Ma non posso disobbedire alle leggi marittime o mi arresterebbero, ed è la Guardia Costiera italiana che coordina gli interventi, poi fissa il porto dove dobbiamo attraccare. Allora pongo io una domanda: perché le navi militari francesi e spagnole che partecipano alla missione Sofia o le navi olandesi e irlandesi di Frontex non sbarcano i migranti nei loro paesi di provenienza? Perché sbarcano tutti in Italia? E giustamente il Corriere dice: beh, ci risponda lei, non sta a me. La verità è che i governi europei spostano le attenzioni sulle ONG perché non sanno trovare soluzioni. Rimane questa domanda alla quale nessuno mi riesce a dare una risposta, e forse a tutti gli italiani, appunto, eludono tutti questa domanda. Perché la Spagna non li prende? Perché la Francia non li prende? E anche Regina Catrambone dice: ah, rispondete voi. Nessuno sa rispondere a questo. In tutto, lasciamo la questione migranti, la questione politica italiana si snoda tra il decreto banche. Allora, quel decreto banche per il salvataggio di banche venete con il passaggio a Intesa San Paolo per un euro, con il finanziamento da 4 miliardi e 800 milioni da parte dello Stato a Intesa. Vi ricordate che questo decreto deve passare, condizione posta da Intesa, deve essere convertito in Parlamento senza alcuna modifica. Questo è nell'accordo siglato. E beh, attenzione, perché sono stati depositati 700 emendamenti per modificare questo decreto. La maggior parte del Movimento 5 Stelle. Certo, si potrà porre la fiducia, ma non è tanto il Movimento 5 Stelle che sta all'opposizione. Il fronte più interessante politicamente è la voce di Michele Emiliano, sfidante di Renzi alla segreteria del PD, governatore della Puglia, che ha scritto una lettera al governo e ai parlamentari del PD in cui definisce invotabile questo decreto, in quanto tradisce i risparmiatori, comporta per lo Stato un onere spaventoso e nella sostanza in larga parte non recuperabile. Questo almeno è l'inizio dell'iter della conversione del decreto, vedremo poi che succederà. Ma io ho una proposta da fare a Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Buongiorno, buongiorno. Ho una proposta unilaterale che tu devi accettare, devi dire solo sì. Di sì? Sentiamo la proposta. No, di sì. No, mi sembrano quelle cose del telemarketing che poi tu dici sì. Allora, come propone contratto. Vittorio Darold, io proporrei il trasferimento di Mauro Meazza a lavorare in Giappone, dove si sta pensando di alzare l'età pensionabile, signori, a 85 anni. E mi pare pure prestino, caro Alessandro. 85! Mauro San, 85 anni. Ma in importiamo Giappone. Subito. E questa... voi che vi lamentate, italiani. Tutti in Giappone. Importiamo subito questa riforma, effettivamente sì. Fino a 85 anni al lavoro. Sei in salute. Alla sei, giapponese. Sei in salute. Sei vabbè, in insomma, salute. Anche verrebbe da dire se ancora, diciamo, tra noi, ecco, perché potrebbe anche darsi, andando avanti con gli anni, che uno preferisca passare. Ragazzi, è vero, è prima pagina del Sole. In Giappone stanno discutendo di alzare l'età pensionabile a 85 anni. Ma infatti guarda, me ne compiaccio caro Alessandro, perché sì. questo riferimento di Vittorio Darold correda i dati sulla disoccupazione che ovviamente non sono andati benino, perché c'è una risalita, siamo all'11,3%, c'è stata una risalita appunto nell'ultima rilevazione, tra l'altro continua a risale anche la disoccupazione giovanile, cioè fino a 24 anni, siamo al 37%. Al doppio dei dati europei e anche di più, siamo terzultimi insomma, quindi non è una buona notizia. Vabbè, vediamo se appunto con questo trattenimento al 85, come ti vedi 85 anni a svegliarti alle 5 del mattino? Sì, non è male. Non... Effettivamente poi si a dice quell'età no, non che si dorme neanche, negli anni esatto. Si dorme poco. Esatto, a quell'età non è un problema. Va bene, invece tempi che si allungano e tempi che si accorciano, caro Alessandro, perché sul Sole 24 Ore norme e tributi, ti segnaliamo che, pur essendo il nostro un paese che ama le proroghe, non abbiamo prorogato i termini per conservare i dati del traffico telematico. Aia. Era una cosa che in realtà era stata fatta con finalità, come puoi immaginare, antiterrorismo, quindi i gestori tornano ai termini ordinari di un anno e due anni e non si potrà andare più indietro, possono distruggere i dati precedenti. Tutto spiegato, guarda, da Andrea Candidi sulle pagine di Norme e Tributi. Naturalmente oggi è martedì, caro. È condominio. Effettivamente. Oggi parliamo del terrazzo. Tu hai un terrazzo? No. Come mai? È un balcone. Vabbè, ma ora di 85 anni fa in tempo a comprartelo, esatto. Insomma. Comunque, il terrazzo chi paga, chi è responsabile e quando è ad uso esclusivo, come si dice, che deve fare il proprietario per curarsi il terrazzo? Ti segnalo poi altre due cosucce qua e là, pescando fior da fiore. L'uno, il piano per le grandi navi a Venezia, sai che c'è questa sì. Annosa polemica, si parla adesso di portare le navi, le grandi navi a Marghera, te lo spiega Jacopo Giliberto su Imprese e Territori. E poi due questioni, per dir così, viabilistiche. La prima, è andato bene il mercato dell'auto, è cresciuto di quasi il 13% a giugno. E poi due cosucce, allora da una parte che l'autovelox, anche quello mobile, va sempre segnalato, e dall'altra che è in corso un programma di verifica su 1 milione più o meno di autovetture, si stima, per capire chi non si è assicurato, quindi sai che non c'è più l'obbligo del tagliandino e allora pare che ci sia anche una certa disaffezione ad assicurarsi. Stanno verificando dal 1° all'8 di luglio. Tutto ciò premesso, caro Alessandro, traffico! Alessandro Milan, il dollarum dell'informazione. Oh, il dollarum, ma sì, io guadagno, sto strappando adesso un rinnovo del contratto più o meno sulla stessa cifra di Donnarumma, 5-6 milioni l'anno, stiamo vedendo se 5 o 6, ci stiamo, anche 5 e mezzo mi va bene. Comunque la politica la chiudiamo con due chicche, se volete, dai giornali. Il convegno del Movimento 5 Stelle, di cui parla Annalisa Cuzzocrea su Repubblica a pagina 9, e fa capire la Cuzzocrea che la battaglia d'autunno del Movimento sarà chiedere la revisione del Fiscal Compact, o meglio che non venga ratificato, in modo che si possano prevedere investimenti extra deficit, quindi la battaglia più sull'Europa, mentre mistero sull'idea euro, uscire, non uscire dall'euro. Su questo anche Beppe Grillo è stato come al solito vago. quando fa queste uscite che lascia tutti gli interlocutori col fiato sospeso. Ci saranno grandissime sorprese, ha detto Beppe Grillo strabuzzando gli occhi e andando via senza aggiungere una parola. Mentre nel centrodestra l'ottimismo di Berlusconi è quello di ricomporre con Salvini, come racconta nel retroscena della Stampa Amedeo La Mattina, pagina 7, Berlusconi dice Salvini verrà a Canossa e Meloni, Giorgia Meloni, col suo 4% non va da alcuna parte. E quindi Berlusconi pensa così di federare il centrodestra. Vabbè, guardiamo un po' all'estero, allarghiamo gli orizzonti. C'è in America il grande dibattito del rapporto tra il presidente americano e i media, i mezzi di informazione. L'ultima uscita, quella in cui ha usato una sua vecchia immagine in cui interveniva in un incontro di wrestling, ha fatto un fotomontaggio e ha finto di abbattere a cazzotti la CNN in questa metafora. Donald Boxer dice colpite i media, questo è il titolo di Corriere della Sera, Giuseppe Sarcina, pagina 5, un Donald Trump che non si ferma, leggeremo e vedremo anche di peggio sul suo account Twitter. In due giorni la clip con la finta aggressione a bordo ringa ha accolto il consenso di 500.000 persone su 33 milioni di follower che ha il presidente. Trump vive di TV, racconta il Corriere, segue le principali trasmissioni del mattino, ma soffre, fuma di rabbia. Individuò nella banda dei quattro costruttori di notizie false l'NBC News, l'ABC, la CBS e la CNN. Conosce personalmente i conduttori più popolari, con loro ha un rapporto ispido, contraddittorio. Ne ha invitati diversi alla Casa Bianca il 18 maggio per un pranzo informale, compresi i nemici della CNN, e i rapporti erano già guastati con quasi un anno di scontri e incidenti alle spalle. Dunque il punto più basso del rapporto tra presidenza americana e mezzi di informazione, Corriere della Sera, pagina 5. Sempre sul Corriere, i rapporti non sono neanche buoni, e lo sappiamo, nei paesi del Golfo. Vi segnalo la pagina di Viviana Mazza sul Corriere, pagina 15, perché ricordate, il 5 giugno scorso Arabia Saudita, Emirati, Bahrain, Egitto hanno ritirato dal Qatar gli ambasciatori, hanno chiuso le frontiere, hanno sospeso tutti i trasporti con questo paese, dando un'offerta di riconciliazione con 13 richieste durissime che scadeva ieri. Ora sono state concesse 48 ore di proroga in questo ultimatum. E però è interessante perché è una parte del mondo geopoliticamente molto delicata. Poco prima dello scadere dell'ultimatum, il Qatar ha consegnato la sua risposta, una lettera scritta a mano dall'emiro Tamim bin Hamad El Thani, consegnata dal suo ministro degli esteri al sovrano 88enne del Kuwait, lo sceicco Al Sabah. Funzionari kuwaitiani e del Qatar non hanno rivelato cosa ci sia scritto nella lettera, c'è solo una foto dell'incontro. Però il dato di fatto è che i paesi che hanno dato l'ultimatum hanno concesso altre 48 ore dopo aver posto queste 13 richieste non negoziabili presentate al Qatar, accusato di appoggio a gruppi terroristici come l'ISIS, Al-Qaeda. Hanno chiesto la sospensione di ogni contatto con i fedeli musulmani, la chiusura della TV Al Jazeera, anche l'estromissione dei militari turchi dal proprio territorio, la riduzione dei rapporti con l'Iran. Vedremo se il Qatar rispetterà queste condizioni capestro. Va bene, dai, non ho letto nulla di Fantozzi, o meglio di Paolo, del grande Paolo Villaggio, perché trovate decine e decine di commenti, non so orientarmi, ma trovate ricordi, interviste, ovunque trovate ciò che volete, pagine su Paolo Villaggio. Siamo alla Carta Costa in chiusura, l'articolo più inutile scovato sui giornali, siamo qua su Libero, dove Azzurra Noemi Barbuto racconta che sono sempre di più gli uomini, immagino uomini soprattutto, che si comprano la fidanzata di silicone arrivando a spendere per le nuove bambole 3.000 euro. Ma chi se ne frega!